tornerò contro ad ogni tempo e ti troverò anche in fondo al mare. In ogni fiore e filo d'erba io ti andrò a cercare come raggio di sole. Io ritornerò, non potrai fuggire, e ti sfiderò in un altro amore. E non vorrai più farmi andare, e vorrai sanare le mie ferite amare. Io ritornerò senza più bussare la tua porta, che non potrai sbarrare. Ogni finestra che dal sole tu dovrai aprire senza primavera. Io ritornerò nel tuo cielo buio e ti accenderò ogni stella in cielo. Ti vestirò di luna nera, di veleno e miele, ti farò soffrire. Io ritornerò in questo saluto, questo addio che tu oggi mi regali. Lo porterò in fondo al cuore fino a farmi male e poi potrò scordare.